Cialtroni nello spazio, puntata di mercoledì 7 febbraio 2007. Giusta la data? Sì, ok, perfetto. L'attimo di approfondimento cultural, tecnologico, informatico di Radio Nadurto. Un attimo che dura circa mezz'ora, come ogni settimana, attorno alle 12.40, sulle nostre frequenze. Ogni settimana, sì, dai. Ogni settimana, sempre. Circa mezz'ora in compagnia di Alessandro Marco Francesco, esatto, a parlare di informatica. Appunto, di informatica, di libertà, diritti digitali. Digitali e di quant'altro. Licenze libere, libertà. Un sacco di roba. Filosofia. Software libero. Allora, varie le segnalazioni che faremo per quest'oggi. A tenerci compagnia come al solito i Chemical Brothers Remixed e poi la musica che ci presenterà più tardi Alessandro, che non ha ancora salutato. Saluta Alessandro. Ciao a tutti. Perfetto. È un po' piatto. Vabbè. Allora, parleremo oggi più non esattamente in questo ordine. Un nostro ascoltatore ci ha chiesto di parlare dei router, ovvero dei router. Dai, non prendere in giro la gente. Vabbè, no, era simpatico però. Poi parliamo di petizioni online, ce n'è una di cui ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, una nuova di questi giorni, fresca. Sullo stesso argomento. Esatto, parleremo poi di formati aperti. No, su argomenti differenti. Vabbè, niente, non sei mai d'accordo. Non togliere tutta la suspense. E poi qualche news, ho dimenticato qualcosa, Zamp? Ma sì, no, in sintesi qualche news semplifica il fatto di dover annunciare che cosa dovremmo dire. Esatto, farli figuracce, tipo di solito parleremo di questo. E poi, ma non per cattiveria, perché ce lo dimentichiamo in questa mezz'ora. No, in una scena che mi sembra già vista, propongo a Marco di dire, ci presenti questa petizione. No, allora, io avevo preparato l'altra, questa tocca Alessandro. Ah, allora, questa tocca Alessandro, va bene. No. Cioè, non ci siamo capiti ancora, non importa, comunque si parla ancora di diritto d'autore, torniamo a parlare anche della chiusura. La settimana scorsa avevamo già parlato di della chiusura di Homo Laicus, un sito di arte che presentava centinaia di foto che secondo la SIAE erano coperte da diritto d'autore, ovvero la riproduzione di numerose opere d'arte, un sito no profit che quindi non danneggiava nessuno e che anzi permetteva, a parte ovviamente gli autori più famosi ma anche nuovi autori o comunque persone emergenti nel mondo dell'arte, di presentare le proprie opere, perché venivano poi recensite appunto da Homo Laicus. La SIAE aveva preteso una tassa di circa 4.700 euro a corrispettiva di danni che avrebbero ricevuto appunto per la violazione del diritto d'autore, e poi la questione sta andando avanti. Esatto, ricordiamo che la SIA aveva richiesto circa 5.000 euro che probabilmente verranno corrisposti, onde evitare ripercussioni legali. E comunque è partita questa petizione da parte della ANITEL, l'Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning, e una petizione che chiede appunto una riforma della normativa che la SIA ha utilizzato appunto per richiedere questa, per fare questa richiesta di risarcimento. Ricordiamo che l'autore comunque di Homo Laicus ha deciso di pagare senza andare in tribunale, quindi è tutto da dimostrare che sia veramente applicabile, però si sa, le agenzie di difesa del diritto d'autore sono potenti, hanno pool di avvocati, per cui generalmente è una battaglia impari. Questa è la petizione che parte da una serie di ragionamenti, tra i quali appunto fa insomma un'ipotesi sulle possibili conseguenze dell'applicazione di questo tipo di iniziative da parte della SIAE. Ad esempio, qualsiasi sito scolastico o blog didattico che utilizza per puro scopo didattico file sonori, immagini eccetera eccetera, rischia ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata. E rappresentazioni teatrali, saggi di fine anno caratterizzati da sfondi musicali eccetera sarebbero insostenibili dal punto di vista economico. Realizzare CD-ROM didattici e la creazione di ipertesti sarebbe estremamente costoso, perché richiederebbe il pagamento di royalties a copia. La libertà didattica e le specifiche competenze professionali risultano condizionate, questo rispetto ai punti sopra. Per questo la petizione lanciata. chiede appunto che sia rivista la normativa, e la petizione cui i destinatari sono il Ministero della Giustizia, la Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali. Chiedono appunto che per quanto riguarda la scuola, gli insegnanti e comunque tutto ciò che riguarda la formazione no profit goda dell'esenzione dal copyright, e che possa appunto utilizzare a fini didattici le opere che fanno parte del nostro patrimonio culturale senza dover corrispondere questi diritti d'autore spesso non agli autori ma agli eredi, se non addirittura ad aziende che appunto hanno acquistato i diritti d'autore e quindi non moriranno mai. Marco, vuole anche ricordarci che ce n'era già stata una di petizione. Esatto, che secondo me è ancora sullo stesso argomento, è appunto della settimana scorsa la petizione di Altro Consumo ai ministri dei beni e delle attività culturali Francesco Rutelli e al presidente della Commissione Cultura della Camera chi lo conosce? Pietro Folena, senatore, no? Cos'è Pietro Folena? Vabbè. E appunto era appunto, però questo ancora parla del diritto d'autore, però dal punto di vista della lesione dei diritti dei consumatori, e in particolare dice che la legge vigente sul diritto d'autore criminalizza i consumatori, e in particolare si chiede l'eliminazione delle sanzioni penali per chi scarica e condivide in rete contenuti protetti senza scopo di lucro, e appunto di chiarire il confine che c'è tra copia illecita e copia per scopo commerciale per rivendere appunto i contenuti piratati, cioè appunto di gestire diversamente le due situazioni, quella non a scopo di lucro e quella a scopo di lucro. Chiedono inoltre una modifica chiedo appunto che vengano inserite delle norme per tutelare efficacemente i consumatori dal punto di vista dei DRM, dei sistemi che dovrebbero impedire la copia dei materiali copyrightati, ovvero in particolare la possibilità di creare delle copie private e quant'altro, che normalmente oggi sono assolutamente negate da tali sistemi di DRM. Inoltre chiedono che i DRM vengano unificati in modo che siano interoperabili fra di loro. Se io compro una canzone su iTunes non è possibile che la possa ascoltare soltanto sull'iPod e non sul player MP3 che ho comprato, che costa molto meno. E proprio a tal proposito, la Apple ha lanciato un appello a non comprare Windows Vista, proprio perché non è garantito il fatto che i file che voi avete comprato legalmente, pagandoli anche su quel sistema operativo, poi funzioni. Sì, infatti non c'è ancora iTunes per Windows Vista. Era una cosa impassata. Con i sistemi DRM di Windows Vista potrebbe essere impedito, ad esempio, l'accesso ai file appunto di iTunes, e in particolare gente che si è comprata correttamente questi file, passando poi al sistema operativo Vista, potrebbe non vederli più, ma questa è tutta un'altra storia. Sono arrivate anche delle risposte rispetto a queste petizioni, Alessandro? E attualmente sono circa 10.000 adesioni, 9.900 qualcosa, quindi segno che la petizione online è stata piuttosto reattiva, è partita il 24, quindi la settimana scorsa. Chiaramente il limite di queste petizioni è che sono come delle raccolte firme, ma che non sono valide dal punto di vista delle leggi di iniziativa popolare. Sono solo un segnale che viene inviato ai rappresentanti politici o ai ministri di turno, eccetera, che sembrano in questo caso però avere già cominciato ad ascoltare le cose, in quanto ho qua una dichiarazione del appunto presidente della Commissione Cultura della Camera, Pietro Folena, che si appunto dice di aver ricevuto con piacere il testo della vostra petizione, la cui ispirazione è da me condivisa. Ritengo infatti che le recenti estensioni degli strumenti di protezione delle opere, diritto d'autore, copyright e brevetti, abbiano introdotto uno squilibrio a sfavore dei fruitori. È giusto e sacrosanto tutelare il diritto d'autore sia sul piano morale che su quello economico. Tuttavia questa tutela va intesa nella logica di un contratto in cui la società riconosce all'autore e all'editore certi diritti esclusivi per un tempo limitato, in cambio però di corrispondere diritti per i fruitori delle opere. Diciamo, profondamente d'accordo con questa dichiarazione di Pietro Frolena. Speriamo che speriamo che non sia solo una dichiarazione fatta ai giornali. Che dici, facciamo un piccolo stacco musicale, Alessandro? Cosa proponi oggi? Allora, oggi ci ascoltiamo del metal. No. sì, così. No. Ascoltiamo del metal spagnolo. Ma io proporrei jazz, lui si chiamano Arai, dall'album Società Enferma, che dovrebbe pronunciarsi così, e questa è la traccia che dà il titolo all'album. Wow. Tanto mundo por cambiar y eres una Vabbè, viva gli Amendo, anche se i generi a volte, insomma, ci sono canzoni più belle e meno belle, come ci sono generi che piacciono di più e piacciono di meno. Non fare il fascista che ti va bene solo la tua musica. No, no, no, non sto facendo. Però, sì, appunto perché fascista, metal. Vabbè, Lasciamo comunque, perdere, dai. Allora. E lasciamo perdere e andiamo al cambiamo argomento prossimo. decisamente, andiamo a parlare E di... salutiamo prima di parlare, salutiamo. Esatto, salutiamo Davide che appunto ci chiedeva come configurare i Reuter. È stato simpaticissimo, l'abbiamo trovato a un aperitivo e è saltato fuori il discorso, abbiamo chiacchierato un sacco e poi appunto ci chiedeva perché lui in particolare ci voleva esporre il suo Allora non era un problema. ascoltatore, No, no, è un ascoltatore della nostra Ah, puntata, sì. ok. E infatti ci ha dato un bel feedback su quella dell'altra volta. Vabbè, e lo salutiamo. Ciao Davide. E appunto Ciao. però ci parlava del suo problemino, che era quello che lui condivide da internet cose. Abbiamo un Ovviamente cefalo in Davide è un nome trasmissione. inventato, non è. Vabbè, allora il suo problema era che il mulo usciva con la benda. No, Ovvero, sì, è così. sistema di condivisione da lui scelto. Cioè Emule, che è uno dei più diffusi, anzi direi che è il più diffuso in questo momento, segnala di avere un ID basso, ovvero di scaricare più lentamente, non entriamo troppo nei dettagli, disegnando appunto una benda sopra il mulo, sugli occhi del mulo, insomma. Insomma, esce il mulo bendato e va più piano. Ma non a causa del disegno. Il disegno è una Sì, è chiaro. conseguenza, non la È un causa. modo per evidenziare che appunto il mulo sta andando piano. Vabbè, Che è c'è un problema di routing. esatto. O di firewalling, O di stavamo firewalling. litigando prima. Esatto. Allora, la cosa capita a tutti quelli che hanno un modem router o un modem Ethernet, chiamatelo un Cioè, po'. sostanzialmente quelli che anche a casa loro hanno più computer che sono collegati tutti in rete tra di loro e che quindi utilizzano degli strumenti per condividere la connessione. Sì, ma anche Ovvero, uno anche se ne solo. hanno uno solo, però utilizzano un router che è un apparecchietto molto comodo, che lui sta connesso a internet sempre e quindi non hai tempi di connessione Sì, di tra l'altro dispersione. consigliabile, visto che ormai tra un modem USB e un router Ethernet non c'è una grande differenza. Molto meglio prendersi un router che garantisce una serie di cose. Appunto, una di quelle cose che garantisce è la separazione tra la rete internet e la rete interna. Con ottimi vantaggi dal punto di vista della sicurezza, perché Esatto. ad esempio abbiamo un Se sapete computer. usarlo. No, No, ma no, anche se non anche sapete se non usarlo, sapete questo è il usarlo, bello. cioè comunque lui fa una prima barriera verso l'esterno, per cui è impossibile da qualcuno che è su internet contattare direttamente il nostro computer all'interno della nostra rete locale. Insomma, da internet si vede solo lo scatolotto del router. Il problema è che per condividere materiale via internet, o meglio condividerlo utilizzando il sistema più veloce di Emule, è necessario avere la possibilità di ingresso su delle porte, si dice, ovvero cioè, vabbè, comunque è possibile aprire una connessione dall'esterno verso l'interno. Non è particolarmente rischioso, chiaramente è come aprire la porta, insomma. Quindi qualche rischio comunque c'è sempre, piuttosto che tenere tutto chiuso. Però, insomma, i vantaggi sono comunque quelli di avere un trasferimento più rapido con i sistemi peer-to-peer. E il rischio che ci siano problemi di sicurezza su Emule c'è, però bisogna comunque stare attenti a quello alla fine. Una Eh volta sì, che esatto. Emule funziona giusto e è stato aggiornato decentemente, non dovrebbero dare problemi di sicurezza alcuni. Allora, il problema è Considerando che che non è Word, non è di Microsoft, già quello è un vantaggio. il problema è che di router ce ne sono parecchi in commercio, quindi non possiamo dirvi dovete andare lì, cliccare quella cosa, leggere quello, scrivere quello. Allora, vi segnaliamo un sito dove ci sono delle guide fatte piuttosto bene, con anche delle immagini per parecchi router, direi quasi tutti quelli Più distribuiti dalla diffusi grande comunque. distribuzione italiana, quindi quelli si trovano in giro. Vediamo se c'è Allora, anche il il mio. sito è www.emule-italia.it, il meno è il trattino. Sulla sinistra trovate il menu con configurazioni. vi si apre una pagina in cui nella prima parte c'è una serie di link per i firewall, intende i firewall software come Zone Alarm, il firewall di Windows, Norton Internet Security, insomma i firewall software più comuni, e sotto invece trovate scritto router, che è scritto router si legge router, e trovate i vari modelli, appunto sono parecchi, cliccate sul vostro modello e seguite la guida passo passo che spesso e volentieri comprende anche delle immagini, comprende anche nome utente e password di default, cioè quelli che normalmente non avete mai settati, cambiato, esatto, che difficilmente qualcuno ha cambiato, comunque se qualcuno è riuscito a cambiare la password vuol dire che è anche in grado di accedere al router e di farsi le sue installazioni. Se il vostro router non c'è, comunque vi consigliamo di dare un'occhiata, che tanto più o meno le procedure sono quelle, non cambiano poi così tanto. Sì, cambiano magari i termini con cui viene definito la posizione dei menu, però di solito i termini comunque sono, ecco, quando altrimenti c'è sempre l'alternativa di andare la domenica pomeriggio e chiedere tutto a Marco GH al però senza i dati sul router precisi è difficile. Ecco, comunque in caso il vostro router non sia supportato dovete andare a cercare qualcosa tipo NAT o configurazione NAT o configurazione del virtual server o altri nomi vengono in mente, e lì puoi seguire più o meno le istruzioni che sono date per gli altri router. Ma anche configurare il router e il nome del vostro router potrebbe funzionare. Cercando su Google. Ah sì. Google è vostro amico in questi casi. Non è vero. Ma solo in questi casi. Adesso diamo un po' di notizie così velocemente riguardo ai formati aperti. Una probabilmente attesa da un po' di persone è che Microsoft ha deciso di pubblicare un add-in per convertire il formato Open Document, che gli ascoltatori e le ascoltatrici più attente, nonché gli appassionati di software libero, sanno benissimo che l'Open Document è il formato di standard utilizzato da OpenOffice Suite, che riesce a diciamo così sostituire la più pesante e più conosciuta Microsoft Office quasi in tutto per tutto. E comunque con OpenOffice il formato standard Open Document adesso si può supportare anche con i programmi della Microsoft. Per ora quello per Word sono già annunciati, comunque quelli che apriranno anche il formato di che permetteranno di utilizzare il formato aperto anche in Excel e in il formato OpenCalc e Open Impress, se non sbaglio. Esatto. Questo per ora esiste, probabilmente non esisterà mai per nessun'altra versione precedente, per le versioni 2007, 2003 e XP di Office. Viene aggiunto appunto a Word questo add-in come nuovo filtro di importazione ed esportazione dei documenti. L'indirizzo dove questo è possibile da trovare, un attimo solo che lo cerchiamo, perché ci siamo dimenticati ovviamente di segnarlo, come le cose migliori succedono a volte. Beh, ricordiamo che la questione un attimo però dei formati aperti e dei formati chiusi, noi consigliamo sempre di utilizzare dei formati aperti tipo il formato Open Document oppure il formato PDF, o almeno per i in questo caso per i documenti, perché questi possono essere visualizzati da chiunque e non soltanto da persone che hanno comprato Microsoft Word. Utilizzare i formati aperti quindi non obbliga le persone a fare robacce robe tremende, tipo dover piratare il software, mettere su Office piratato, oppure perdersi nelle funzioni di importazione di OpenOffice o quant'altro. Cioè, certo, con OpenOffice si vedono, però insomma la Microsoft fa gran parte del suo gioco appunto sui formati, e quindi insomma scardinarla un po' nella gestione dei formati chiusi non sarebbe male. Ah, l'indirizzo è odf-converter.sf.net, che sta per SourceForge, un repository di progetti appunto software libero. E tra l'altro, per ricollegarsi a quello che diceva Marco, c'è da dire che Microsoft ha avuto non pochi problemi proprio per i suoi formati chiusi, e questa è la diretta conseguenza anche della decisione dello Stato americano del Massachusetts, che ha chiesto di utilizzare formati aperti per per la propria pubblica amministrazione, e tra l'altro fa anche parte di un po' come conseguenza della strategia che si sta percorrendo con Novell e gli accordi di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Anche l'Italia ha sottoscritto un protocollo di intenti a livello europeo per l'utilizzo, tra l'altro con una scadenza pari alla fine del 2007, ne avevamo parlato un mesetto fa, protocollo di intenti appunto per convertire la pubblica amministrazione in formati aperti. Salvo poi, una notizia di questa settimana, pubblicare la finanziaria in un comodissimo e praticissimo formato PowerPoint. Cioè quelli che dove voi dovete fare click per vedere la pagina successiva. Esatto, sì, sono sono programmi che si usano per fare diapositive, per videoconferenze lezioni, insomma, cioè, assolutamente inutile per un documento di testo come la finanziaria. E poi per di più è un documento in formato chiuso, e quindi cioè... E in più, appunto, cioè in più sul discorso che stavamo facendo, è in PowerPoint, che è un programma della Microsoft, che l'equivalente in Press di OpenOffice legge, però con tutte le eventuali piccoli difetti. In questo caso la conversione è abbastanza conforme, anzi riprendendo non c'è nessuna differenza. Comunque tramite il sito Mezzomondo è stato convertito questo documento in formato HTML, che è possibile, in cui è possibile anche fare delle ricerche, anzi che viene addirittura indicizzato da Google. Per cui... sapete, se volete assolutamente, non volete perdervi la meravigliosa legge finanziaria 2007 e volete assolutamente studiarvela a memoria, la potete trovare utilizzando l'indirizzo mezzomondo.nelblog.it. E no, ciliegina sulla torta, nella legge finanziaria, ne avevamo parlato anche di questo, è prevista una serie di finanziamenti per la crescita dell'industria italiana del software, in particolare per le piccole imprese. C'è anche la formula è che in fondo al mercato innovazione e creatività, comunque piccole imprese che lavorano su avanzamenti tecnologici dal punto di vista software. La cosa interessante è che il documento è anche quello in formato doc, quindi sono recidivi. Forse ce la faranno un giorno a uscire. Altre brevi segnalazioni, sempre per restare in tema Microsoft, c'è un pericoloso exploit di Zero Day di Office che va a attaccare in questo momento Excel, ma potrebbe essere utilizzato anche per altre versioni di Office, e interessa le versioni 2000, XP, 2003, 2004 for Mac di Office, non può essere sfruttata in Office 2007. Microsoft ha raccomandato agli utenti di porre attenzione ai documenti provenienti da fonti sconosciute, perché al momento non esiste ancora una patch. Allegria! Un'altra notiziola veloce veloce: Bill Gates si è presentato all'inaugurazione della presentazione di Windows Vista in Romania, in cui ha ricevuto anche la maggiore onorificenza, la stella della Romania, massima onorificenza civile rumena, che le ha date direttamente il presidente rumeno, giusto? Sì. Dopo la carota gli ha rifilato il bastone, esatto, Traian Basescu, ricordatevi questo nome perché la sua faccia tosta deve essere stata veramente... Che appunto, dopo aver elogiato Bill Gates, appunto ha dichiarato che i pirati. Aspetta, che... No, vai, scusa. La pirateria ha favorito l'istruzione delle nuove generazioni, perché così i giovani hanno scoperto il computer. Come dire, siamo troppo poveri per pagarci quello che tu vuoi vendere e noi non ce l'avremmo mai fatta. Però ti abbiamo dato la stella bla bla bla lì. Ma la cosa divertente è che Basescu, il presidente, sostiene che proprio i prodotti della Microsoft siano quelli maggiormente contraffatti nel paese, in particolare dall'inizio degli anni 90. E tutto questo stringendogli la mano a Bill Gates. La cosa incredibile è che, vabbè, insomma, Bill Gates ovviamente non sapeva come rispondere, ha comunque confermato, e tra l'altro si trovano a un'inaugurazione di un centro della Microsoft dove faranno delle ricerche, che è costato circa 12 milioni di euro. È tornato nei paesi dove lo accolgono più con meno faccia tosta, mettiamola così, non gliele dicono in faccia certe cose. È andato a Parigi e ha detto che Microsoft intenderà continuare gli investimenti in Romania, la visita nel paese, appunto, ricordiamo, per lanciare Windows Vista e la accoppiata Office 2007 Exchange Server 2007. Beh, due secondi per citare quello che è successo 20 anni fa in una televisione americana. Andate a cercarvelo su internet, durante una trasmissione di una soap opera pallosissima o qualcosa del genere. Un tizio, tale Max Headroom, è riuscito a intrufolarsi in un canale di trasmissione americano con una clip da 1 minuto e mezzo, facendo una scena decisamente simpatica e a distanza via un di po' 20 di anni non hanno ancora scoperto chi è. Esatto. Molto carina la scena. E con questo la sigla, Barry Grace in Space 99, main theme per main title per chiudere così la nostra trasmissione, ricordando che domenica ci sarà, come tutte le domeniche, al Circo Lab via Fratelli Bandiera a Brescia numero 14C, l'apertura domenicale del laboratorio autogestito di informatica popolare. Tra l'altro abbiamo i computer nuovi, i monitor nuovi, sì, adesso si naviga veramente bene e facciamo anche aperitivi e tra un po' soprattutto Marco ne fa o ne, Marco ne beve. Marco è un grande aperitivista. Gli faccio anche bene però. spazio.circolab.net, il sito che forse un giorno verrà aggiornato con le puntate, forse, però smettiamo di citarlo. Okay. La nostra email radio@circolab.net, se non mi sbaglio. Se avete delle domande o dei dubbi amletici sull'informatica, scriveteci. Risponde direttamente Marco.